fiorosi, aspersi, liquido umano. Tanto affiorano specchi di luce, censurabili momenti di passione dispersa. Thank you. Solo dialoghi di ricordi, assenza, no, in attesa di qualcosa, ma di cosa? Di cosa? Serenamente la pista è stupida, provocando con questa periodica turpi reazioni clamore di calo, attacco di divisione, da ogni parte, con una urla instabile, pazzia, complessivi caramente, la rabbia, sì. Chiusa, sì. Solo, capito, sì. Incensurabili momenti, passione dispersa.